Noi in questo stesso giorno abbiamo occupato un ex laboratorio, per precisione, ormai fermo in queste condizioni già da 10 anni nell'area di Filippo Re. Questa occupazione arriva il giorno prima di una giornata nazionale di mobilitazione universitaria e studentesca come quella che sarà domani del 18 novembre, ma soprattutto per dare un segnale anche dall'università e dalle lotte universitarie verso lo sciopero generale del 2-3 dicembre dei sindacati di base che si terrà in questo paese. Le questioni che stiamo cercando di alzare sono molte. C'è una questione di modello di università d'eccellenza, già ci siamo anche mobilitati, in particolare chiamando uno sciopero studentesco qua a Bologna in occasione dell'ennesimo suicidio di un nostro collega che, con la minaccia del fuoricorso e la pressione che da questo stava subendo, insomma, ha deciso il giorno che aveva detto di laurearsi ai suoi parenti e alla sua famiglia di togliersi tragicamente la vita. Il modello di eccellenza è un modello che si basa su una competizione fortissima fra gli atenei, quindi il fatto che Bologna abbia delle risorse ingenti che arrivano a cifre che molti altri atenei di questo paese si sognano sono il contraltare di quello che è successo a Cagliari, dove l'Aula Magna è crollata con ovviamente tutto il pericolo che la situazione rappresentava, a cui poi sono seguite anche lì mobilitazioni studentesche. Questa è semplicemente l'altra faccia che viene rappresentata come il modello da seguire, ma che non parla in realtà di un modello impossibile da raggiungere. Questa differenziazione è interna anche all'ateneo stesso. Oggi ci sono una serie di corsi, una serie di facoltà, una serie di percorsi di ricerca che vengono privilegiati rispetto ad altri perché funzionali a quella che è il fine ultimo che oggi l'università si pone, che è la relazione con il tessuto privato, che va dalla svendita di tutta la conoscenza sociale prodotta in università nelle forme dei brevetti e della collaborazione con le aziende private, dove i ricercatori molte volte succede anche che lavorino direttamente proprio per le aziende o nelle aziende. Su questo per esempio il caso della Philip Morris, oppure si costruiscano strutture dove sì, metti super computer europei, ma tu stesso chiami quel progetto lab di startup di questo paese, e parlo del Tecnopolo. Questo fare università, quella che viene chiamata la cosiddetta università pubblica, oggi è completamente superata. Il modello di università pubblica che doveva garantire un'emancipazione individuale e sociale, che permettesse appunto la possibilità, al di là delle origini di classe, di potersi garantire un futuro, è stata completamente cancellata in favore di un'esclusione di classe e una selezione della forza lavoro sempre più pesante. Le politiche abitative dell'Università di Bologna e il mantenimento delle tasse universitarie anche durante il Covid, costi che sono tra i più alti in Italia. Ovviamente il tema della guerra, su cui stiamo denunciando a livello anche nazionale le collaborazioni che ci sono fra l'università e la guerra, e tra uno dei casi più eclatanti che abbiamo appena portato alla luce c'è cioè la partecipazione di 17 rettori delle università, tra cui anche il rettore di Bologna appena uscito dal suo incarico, è messo lì proprio in veste dell'Università di Bologna, nel comitato scientifico della fondazione della Leonardo, presieduta da Minniti, come anche la questione degli spazi, che non è solo spazi fisici, spazi dove poter esercitare anche politica, socialità, portare temi differenti sul piatto rispetto a quella che è la narrazione corrente che la stessa università anche porta avanti, ma spazi che quindi sono anche spazi di democrazia all'interno dell'università, che c'è sia a livello studentesco, con il controllo feroce che viene fatto rispetto a qualsiasi tipo di iniziativa uno voglia sottoporre alla comunità universitaria, sia anche con i problemi anche di democrazia sindacale,